satelliti e della sperimentazione con le parabole, perciò ho piazzato già nei mesi scorsi un po' di due parabole e lavorando, insomma sperimentando sempre nel mondo della, nel mondo della radio. Dicevo proprio lui, perché tu chi altri dicevi? Io quando parlavo di Via Principessa Maria, parlavo proprio di Fara, parlavo proprio di, adesso non mi veniva il nome, che l'hai citato, parlavo proprio di lui, andavo proprio lì da lui e ad ammirare tutte queste radio fantastiche che aveva in negozio, nella parte posteriore, proprio ricordo benissimo, c'è un'immagine, il negozio era stretto e un po' lungo, in fondo lui aveva un affittoietto stretto e dietro una vetrina dove c'erano tutte le radio. Ore e ore lì a ascoltare la gente che andava a comprare le radio eccetera, a vedere, è lì che avevo poi comprato l'antenna una volta, un'altra, poi qualche altra radio, piano piano con risparmi eccetera, e crescere prima dai portati, dal classico mattone, il mattone color azzurro, non mi ricordo di chi fosse, mattone azzurro tre canali, il mattone azzurro grande con lo filo telescopico lunghissimo, e poi radio poi veicolare forse un po' di tre canali, un po' di sei canali, e poi il Pace 123, e poi no, il Catalina 23 avevo, quello che non aveva manco smitter, che c'ha quel gommino per regolare il trimmer della potenza sulla parte posteriore in alto nel cofano superiore, e poi il Pace 123, e poi francamente non mi ricordo che cos'altro, ma ricordo che quando mi ero trasferito avevo comprato il primo il Petrus, quello color cromato, la prima serie che avevamo fatto della serie questa con Maniglioni, e quando quello lì era arrivato da Mario Notari, non ti dico, era una cosa che cavolo, cioè una big radio e poi radio altre a più non posso. Hai nominato Simone Veras, che abita scendendo vicino al rifornitore, scendendo per la Buddy Buddy, è diventato poi l'animatore negli anni 90, ma non ho più sentito, non ho perso le tracce. Carlo Sprinero. sì, in quel periodo, tra l'altro, ma attenzione che stiamo parlando di un periodo dove le onde di propagazione che erano presenti in quel decennio erano in una condizione fantastica, cioè il periodo degli anni 70-80 la propagazione era veramente, la quantità di macchie solari era altissima, cioè c'era la possibilità di collegare il resto del mondo con pochissima potenza, cosa che oramai è assolutamente impossibile. Siamo in un periodo nerissimo, ormai sono decenni che stiamo attraversando un periodo di bassissima attività solare, perciò una scarsissima quantità di magnetizzazione nell'aria, ionizzazione dell'aria, perciò con una bassa attività solare e bassa attività di propagazione, perciò quello che prima negli anni 70 facevi con 5 watt, oggi neanche se c'è 5 kW lo puoi fare, perché non è possibile. Ma non solo, più l'inquinamento che da allora adesso, la presenza di attività che nell'etere c'è, e soprattutto la quantità di popolazione, la quantità di macchinari che generano noise, ha ovviamente cambiato le regole del gioco, e allora oggi non è più come allora. Si fa decisamente più fatica, ma non è solo un problema di propagazione di antenne, è proprio, insomma, cambiato il mondo, sono cambiate il modo di pensare alle comunicazioni, con l'avvento della tecnologia di internet, già che aveva stroncato tantissimo la quantità degli appassionati, poi con la telefonia mobile oramai il mondo della radio è diventato proprio una piccolissima parte solamente di grandi veri appassionati che continuano a praticare, a fare, perché per il resto lungo il percorso in questi ultimi 10 anni si è perso il 70% di appassionati, insomma. Vabbè, poco male, peggio per loro, non so cosa ci fermo. Noi continuiamo con la nostra passione, come ti dicevo io, nonostante gli anni, nonostante le cose, da solo sul tetto lavorando, quel periodo scorso, il mese scorso, quei giorni fa, addirittura cosa sarà, una decina di giorni fa, che stava facendo un tempaccio con un vento cane eccetera, avevo fatto delle modifiche, ma aveva rallentato la parabola, perciò non riuscivo più a sintonizzare il satellite. Allora di notte, con la cuffia in testa, col farete eccetera, mi sono arrampicato sotto la pioggia pur di rimettere a posto, perché non avevo assolutamente desiderio e voglia di continuare l'attività, e così ho fatto, insomma. Perciò quei pochi che rimangono, secondo me, continuo a dire, saranno veramente quelli che avevano la passione dentro e che la radio non la abbandoneranno mai. Assolutamente, meno male che l'ha lasciato così com'era. Certo, non ce l'ha, pazienza, ma è nata così ed è giusto che finisca così. Queste vintage sono belle, tra virgolette, insomma, se rimangono abbastanza fedeli così come erano le loro origini. E niente, perciò quello che mi fa strano che non hai continuato la passione, non ti sei impegnato per passare radioamatore, per continuare l'attività, la sperimentazione e cose. Io già quando, sin da ragazzino che facevo attività CB, poi ero sempre fuori dopo il canale 40 a fare collegamenti, volevo collegare, volevo provare, capire come funzionavano questi contest, cioè era proprio provare antenne, sempre sul tetto a lavorare e fare, questo per tutto il periodo, praticamente sempre sino, come ti ho detto, sino a oggi. Perciò quello di voler continuare a fare, cercare, sperimentare, testare, io ogni cosa che sono sempre stato, insomma, un po' preso dall'innovazione, no? Perciò è venuto fuori le tecniche di traduzione digitale, mi sono assolutamente attivato, sono stato fra i precursori di questa possibilità di interfacciare i primi computer alle radio, perciò l'attività packet, lavorare così con le VBS, fare la prima sperimentazione di trasmissione digitale, eccetera eccetera, sino a poi a lavorare con i satelliti e fare i collegamenti via satellite già dalla fine degli anni 80. Cioè pensare di comunque di continuare la passione, sempre senza mai trascurare quali origini, perché come vedi sono qui ancora con un vecchio vintage a trasmettere qua la cittadina. Per un attimo giovane ho detto, beh, 61 anni, io sono 59, quanti ne ho secondo te? Ai ai ai, caro Gianni, gli anni sono passati in ugual misura anche a me, in ugual misura mi sono passati, e ti ho detto, e io ero arrampicato sul tetto col diluvio, con un vento allucinante, aggrappato alla parabola, regolando, prova, chiudi, imbullora, mia figlia giù, eccetera, di come va, non va, risceni, risali, cioè, allucinante, ma questa è la passione, nonostante l'età, nonostante tutto, ma bisogna fare, e anche perché se non la prendi ora, non è che la prendi, e quando la prenderai mai? Siamo ormai in una condizione dove il metro è un metro, capito? Perciò da 0 a 100, fai a 90 perché a 100 già gli ultimi 10 non contano, e già a 90 non conta neanche, perciò fermati a 85, già a 85, ma a 85 sei un cazzoccio, se conti bene, da 70, da 60 a 70, no? È quello il range, se siamo già fortunati, perciò non c'è da rimandare, ci bisogna approfittare subito Gianni, non rimandare niente, vabbè, comunque è così, dai. comunque sele, come capita, le passioni sono così, ti piace, ecco, ti piacciono le radio militari e uno impazzisce per quei catafalconi e ferraglia, fra virgolette, però che io ne sento tanti che acquistano e vanno a Marzaglia, che guida dai soliti rivenditori, comprano queste radio, ogni tanto sento qualcuno che fa attività e in 40, in 80 entra con radio militari, con una qualità di emissione che per carità è sicuramente per un uso diverso da quello della sperimentazione del radioamatore, però è così, la passione è così, come quelli che sono fissati con il CV doppio e fanno solo quello. A me piace fondamentalmente la fonia, preferisco assolutamente fare collegamenti di ex, sentire, collegare frazioni dall'altra parte del mondo, capire che antenne stanno usando, sono, ecco, vedi, ad esempio io sono molto appassionato sempre sulle antenne, qua sul tetto praticamente è tutta roba, come dico io, fatta all'uncinetto, costruita da me utilizzando solo parti di materiale che viene prodotto, ma poi assemblata, modificata e realizzata sotto mio pensiero, sotto mia cura, modifica e attenzione. E così è come capita a quelli che invece sono appassionati, così, per questi pezzi storici del grigio verde o altri addirittura ci sono, che sono appassionati, come c'era qualche vecchio amico che era appassionato dei collegamenti con i mercantili, c'era un amico che lui collegava fuori legge sul frequente della marina mercantile, andava lì e collegava pescherecci o imbarcazioni che erano in giro per questa altura, cose varie. E perciò niente, la passione della radio è, poi è bella, ma è molto ampia, e poi ognuno trova sfogo e divertimento in quello che sicuramente più preferisce fare, insomma. L'Argus è qua, è qui, l'avevo completamente restaurato, perché poi, cioè, quando mi prende c'ho questa anche cosa di... L'avevo restaurato, insomma, proprio avevo riuscidato tutto, comprato, perché poi mi dispiace perché ha chiuso quel ragazzo che mi vendeva tutte le vernici, tutti i pennellini particolari, tutte le cose più particolari, trovavo da lui, dietro in via Civitavecchia, lì, adesso non mi ricordo come si chiama quella via, via Genova mi pare, via Genova, sì, mi pare che via Genova, che vendeva tutte le cose praticamente, allora, lì compravo tutti i pennellini, tutte le vernici, tutte le cose più particolari per fare i ritocchi e il maquillage estetico. Quella radio l'avevo comprata da Walter, e aveva un po' di segni e un po' di cose, ma non grave, aveva segni di graffi nell'uso sulle parti nero opaco, e perciò insomma, meno male avevo fatto in tempo a comprare quello che serviva, l'ho tutta restaurata e rilucidata completamente, non c'è stato neanche bisogno di riferenziare i cofani perché erano a posto, li ho solamente lucidati con un po' di pasta abrasiva e con un po' di pulice, e qua, perfetta, ogni tanto anche quella la metto in funzione, è molto bella sempre come radio, mi piace molto, già, una bella radio Largus. Ma signor Mura mi conosce da bambino, ma proprio da bambino, da bambino piccolo. Lui aveva il negozio delle vernici in via Casso, perciò comprava anche il materiale, comprava la mia famiglia in fabbrica per materiali per la manutenzione, i lavori che venivano effettuati anche in falegnameria. Lo conosco benissimo. Compro da lui, ma da quel ragazzo invece che ti dicevo, da signor Mura compro, le faccio fare vernici, i colori, tutte le cose, vabbè, il fondo, tutte le cose qua. Ma quel ragazzo lì degli aeromodelli, Gianni, aveva una quantità di pennellini che non era la minima idea, ma pennellini che costavano 10 euro, 8 euro, 12 euro, 14 euro, dei pennellini che ti permettevano di fare dei lavori di ritocco, che erano qualcosa di fantastico, cosa che io non ho mai visto nessun'altra parte, perché lui faceva, ovviamente vendeva tutto quello che era necessario per l'aeromodellismo, non solo per l'aeromodellismo, ma per la costruzione di navi, modellini di aerei, modellini di macchine, modellini di tutto, e aveva una quantità di materiale bestiale, e tante delle vernici che mi servivano le prendevo da lui, barattolini, piccolini, quelli che prima compravo da De Paolini, per intenderci, e poi De Paolini non aveva più nulla, e allora ero diventato cliente suo, ma sfortunatamente l'anno scorso sono andato proprio per comprare il materiale per fare dei ritocchi per delle radio eccetera, e mi ha detto: guarda, mi spiace, ma io a dicembre chiudo l'attività e finito tutto, non proseguo. Un'altra luce che si spegne. Ti capisco, e questa è una paura sensata, è un pericolo, perché quello dice: dove che sia, non è arrivato, ciao, buonanotte, tu hai perso una cosa per te importante. Lo so, io quando spedisco qualcuna delle vie radio è lo stesso pensiero, cerco di controllare, di marcare stretto la spedizione, l'arrivo, ma è sempre un punto interrogativo. Non ho mai sperimentato questa vernice che vendono spray che croma, però bisognerebbe provarla. Gianni, prova a comprarla. c'è in vendita, però non so, francamente non ho mai provato a usarla, se funziona, ma se funziona sarebbe una gran cosa. Certo, se uno è peniso la prende e vai, personalmente gli consegni a mano, guai quando vengo, domani, dopodomani, ok, domani vai, cioè capito, il pezzo è seguito, ma spedire, fare, quando arriva, dove lo mettono, lo buttano, lo fanno, cioè è sempre un problema, già, ti capisco, viviamo con il timore dell'isola che in questi casi è così. No, che non c'è possibilità di andare, tornare, viaggiare per lavoro, e allora ne approfitto a farsi questi lavori, questi interventi. Ho lasciato il comostat in funzione, acceso, bello caldo adesso, è proprio una stufetta il comostat, è veramente, c'è il coperchio che ancora un po' puoi cucinare le uova, come si diceva. Sì, adesso ho mai ricordato, parlando di microfoni, stavo pensando indietro negli anni, ad un microfono che avevo, che era uguale a un microfono da zar, ma era marcato Leson. Te lo ricordi quei microfoni marcati Leson? Era sempre color acqua marina con effetto martellato, tipo i Tokai, tipo il cofano del Tokai, che aveva la pinna nella parte superiore e il becco e il perimetro della capsula era cromato. Ma andava benissimo quel microfono, e sempre con la regolazione posteriore come quella dei, come tipo quella del Super Sidekick, tipo quella del Turner, di quella serie, di quel periodo. Marcato Leson, però, te la ricordi questa? Quelli lì, MP2, l'MP2 quello lì, col guscio frontale, panna e il resto azzurro. Sì, però mi piaceva la timbrica, aveva una bella modulazione. E quello io non, di quello lì non ne ho mai trovati. Beh, cioè ne ho sempre trovato tanti, per carità, però non belli, cioè in uno stato di uso devastati, tutti mangiati, vecchi, il cavo scuoiato, no, non ne voglio roba così. Però nuovo, bello, non ne ho mai trovato, manco uno, mai. Adesso vabbè, sono un po' di anni che non vado più alle fiere, ci sono stati degli anni, negli anni passati, che facevo il giro di tutte le fiere, a parte che adesso diciamo che ho anche meno impegni col lavoro, mentre prima tre volte al mese, quattro volte al mese, ogni settimana quasi dovevo salire in continente, perciò era più facile andare costantemente a girare per la fiera di Padova, la fiera di Genova, la fiera di Milano, la fiera dappertutto, Vercelli, tutte quante le fiere le fatte, tranne quelle del sud Italia, perché non avevo nessun motivo di andare, perché le aziende le ho sempre avute tutte al nord, in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna, perciò fiere a più non posso, però così bello non ne ho mai trovato, non è mai capitato, e quando è capitato che l'ho visto, era già venduto e insomma non ho mai potuto acquistarlo. Mentre sai che cosa ho io molto belle, che però sono da tantissimo che non le uso, speriamo che funzionino, chissà. Ho due Per Simpson Simba, quello che era giudicato alla radio CD più costosa negli Stati Uniti. Un'altra parte della sala radio, e ce le ho, dovrei spostare un po' delle cose per prendere, che sono sovrapposte, ce ne ho due, una fra l'altro ha il suo microfono da tavolo molto ma molto bello e particolare, non so so se te lo ricordi, con il maniglione per regolare il becco dell'inclinazione, cioè, pesa una cifra su quel microfono da tavolo, bellissimo, una è completa così e l'altra invece c'ha un microfono, da palmo. E adesso non mi ricordo, ma mi pare che siano tutte e due a 110 volt, io ho i trasformatori, quelli americani, per farli funzionare. Che era già la radio più costosa della banda cittadina, era, adesso non mi ricordo che anno fosse, nelle pubblicità, ma tipo nel 78, 77, 78 credo, una cosa del genere, e a parte che è un bestione, pesantissimo, è bella, è proprio massiccia, ma costava tipo $450, una cosa del genere, cioè era una cosa pazzesca. E ne ho due, fra l'altro, una è quella versione che facevano con le maniglie cromate, l'altra invece c'ha le manopole tipo quelle classiche maniglie, manopole Drake, col piattello tipo Magnum, eccetera, che c'ha l'alperimetro nero e poi il tappo cromato. Una è tutta con le manopole tutte cromate e l'altra invece è l'altra con queste manopole, così, che ho visto in qualche fotografia, che veniva realizzata, non so se era versione prima o seconda, non lo so. E poi gli vabbè, a parte che ho bellissimo il DAC 10, che quello ci ho già preso una cifra e ancora però non ho finito quei lavori. Vabbè, ho fatto rifare gli strumenti, ho fatto ricostruire tutta la parte del circuito dell'indicatore dei canali frontali. Ma ti dico, questa è spettacolare, nel senso che è proprio nuova, il frontale è perfetto, cioè con tutte le striche, tutte le cose, bellissima. Poi particolare, ma proprio particolare, cioè, ho il tram, il 201A, quello lì questi qui sono proprio i tre pezzi matto della banda cittadina di sempre, il tram, il DAC 10 e il Pet Simpson, il Simba sono i tre, che, vabbè, a parte ovviamente il Comstat, le altre radio di riferimento, poi ci sono tutto un altro lapus dei Niva, il Coltex Calibur, da quest'altra parte, c'è il coso, il Pace 1000, bellissimo, il Pace 1000 è lo stesso, molto bello. già di Plian ho fatto, ho una montagna di roba qua in mansarda dall'altra parte che ancora non è finita, ho casse con roba, ma devo dire che quando ho spostato la sala radio da giù a qua su ho buttato via tanto di quelle cose che avevo, perché boh, sarà che se non diventi accumulatore seriale, ho di tutto, conservare di tutto, già che devo conservare cavi di antenne smontate, antenne vecchie, antenne sostituite, apparecchiature dismesse, modem e cose utilizzate, sperimentali, provare, fare, ho una quantità di cose, cioè ci vorrebbero depositi, dovrei avere un deposito per Danieta, già qui la sala radio che è grande, perché è molto grande, non dico che è quasi come un appartamento, ma è grandissimo questo spazio che ho per la radio, eccetera, ho già un caos, una quantità di roba esagerata, perciò ho buttato tutta quella roba cartacea, i cataloghi, i vecchi cataloghi, anche del mondo anche le radio riviste, ho conservato, perché ne avevo, ho una collezione che risale alle radio riviste forse dal 74, dal 73, radio rivista 74-75, agli albori della radio rivista dei radioamatori, ce le ho tutte sino ai tempi recenti, tutte conservate, quelle lì le ho scatolate, eccetera. I vecchi giornali di elettronica pratica, nuova elettronica, quello non so veramente se magari qualche cartone è rimasto, perché ho anche tanti cartoni dove c'è tutta la roba della moto, delle classifiche delle gare, dei giornali delle moto delle gare, quando facevo le gare di motocross e cose varie, insomma, montagna del roba. No, questa cosa delle radio, queste sono cose accumulate nei decenni, già, questa è tutta roba che io ogni tanto ne compravo uno, oramai, su Gubicio, e ovviamente ti ritrovi, ma non ho più nessuna intenzione di comprare niente o di rifare nulla, perché già ci bisognerebbe campare altre 5 generazioni per poter usare queste cose, e come sappiamo bene, come già si è vissuto anche per altre circostanze, quando poi non c'è più finisce tutto a catafascio, perciò comunque ce ne ho una mano, e ogni tanto mi piace così, tipo stasera, incontrare qualcuno così come te, fare 4 chiacchiere belle, tranquille, serene, provare la radio, chiacchierare e ti diverti, ti godi la radio, perché questa console 2 ti dico, quando adesso la rimetti in funzione ti piacerà, perché già pensare a una radio di allora, quando va in trasmissione e lei ti indica l'intonazione della voce con la lucetta che si accende di più o di meno secondo l'intensità della voce, con la scritta on the air in verde, in blu nel fondo rispetto all'azzurro, cioè è fantascienza, pensando a questa radio nel 74, cioè le cose blu le abbiamo viste in tempi recenti, qua, per dire, no? E questa qui ha già due colori, con lo strumento verdone più verdino, cioè è bellissima, perciò ti fa piacere. E perciò insomma godiamocele, e ogni tanto poi ti dico anche a te, portatene qualcuna lì e attacca l'antenna e falla andare. ce la prendi, e se poi c'hai da fare qualche lavorettino, tu già sei, già ti piace, c'hai la voglia e il tempo, e te la rimetti a posto, perché credo che il problema di queste radio del passato è quando sono danneggiati i frontali, le manopole, i contenitori, le parti meno, perché la parte interna poi, essendo realizzate componenti vecchio tipo, si può intervenire tra virgolette, a meno che non siano cose particolari difficili da recuperare, ma ad esempio non so, il DAC, no, qui che ti ho detto che ho avviato già nel tempo un percorso di restauro, ad esempio lì c'avevo un compensatore che è verso la parte rotaia finale, lì un compensatore che era rotto, proprio rotto, probabilmente nella spedizione, nel trasporto. Questa radio l'avevo comprata sarà più di 10 anni fa, e non funzionava bene, l'ho comprata ma non funzionava. Però l'ho comprata perché aveva il frontale nuovo, era tutta nuova, esteticamente nuova, però non funzionava granché. Allora, l'unica cosa che aveva danneggiato erano due strumenti, a parte gli strumenti si vedeva che erano danneggiati, ma quelli sapevo che si potevano riparare, e così devo dire sono riuscito a far riparare, per rifare i vetri, rimettere a posto gli strumenti proprio in maniera che siano alterati con lo zero di fondo scala, perché erano incasinati, insomma, e poi ti ho detto riparare. L'importante è, in queste cose grave, se è danneggiato, se ci mancano le scritte o del genere, cosa fa? Lì è un casotto, non è semplice. Ma poi la parte della circuitazione, bene o male, quella si riesce, certo bisogna comunque, ci vuole del tempo, ma si riesce comunque a rimetterla a posto. In teoria lo so, però poi tu ne hai mai fatto di questi interventi così? Sicuramente non è semplice, ma internet, Amazon oramai ci rende la vita molto più facile. Io devo dire che riesco a risolvere, perché riesco a risolvere così, eBay e Amazon. Serve un connettore, un adattatore, una cosa, adesso ad esempio con questa cosa dei satelliti, l'attività lì è tutta con connettori SMA, F, un casotto, non c'è niente in giro per poter lavorare con cose serie, eccetera, eccetera, a parte che non trovi neanche cavo di questo tipo, non c'è. Ma dico, meno male che abbiamo la tecnologia, in pochi giorni ti arriva, a parte i problemi del Covid, ma normalmente in pochi giorni ti arriva e riesce a risolvere. RS Component o aziende ce ne sono fuori che ti forniscono di tutto e di più. Oggi credo che sia decisamente più facile rispetto rispetto a prima, è solamente una questione di tasca. Già, quando c'è la tasca profonda, trovi tutto, perché il ricambio, ne compri un'altra sfasciata col frontale brutto, massacrato, smonti, prendi tutto quello che ti serve, sostituisci, modifichi e fai. No, io certo non ho quella voglia di fare queste cose, perché già sono impegnato da altra parte, perché per questa cosa delle oggi ad esempio sono stato ore e ore per risolvere settaggi di parametri di funzionamento di un'interfaccia per il cast della radio, che doveva lavorare con un software per trasmettere in tutti i vari sistemi digitali. Perciò sono impegnato in altro, ma dico, uno che ha voglia e passione, c'è Fabrizio, esempio, di DL, che è il radiatore che viene obbligato, che proviene da qua dalla 27, che lui ad esempio invece è appassionato molto, ha anche tante altre passioni, ma ha appassionato molto nelle parti della circuitazione, nel risolvere i problemi, ha riparato tante radio le ha riparate lui, della banda cittadina, e anche radiatoriale, anche a me ha fatto un sacco di Fabrizio ha fatto un sacco di interventi, ma interventi che addirittura altri non riuscivano a risolvere, al centro di assistenza lui li ha risolti. È un grande appassionato, c'ha molta giovane e si è occupato anche tutta l'attrezzatura per poter aiutare il spettro, è andato a disegnare, è uscito tutto, cioè ha un piccolo laboratorio. No, io poi su queste cose al surplus non la... Sì. sì, magari navigando capita che vedi, esco, vedi queste cose in grigio verde o altri siti, però gli do un'occhiata, alle volte è così simpatico perché comunque mi piace curiosare, ma non sono uno che va normalmente a vedere queste, le radio militari, per intenderci, questa roba qua. Il DAC comunque ricordo che ha diverse valvole, ma francamente così a memoria non mi ricordo che cosa. Questo che ho io, le valvole erano buone, erano nuove, insomma erano cariche, e il DAC da 12 watt mi pare, 12 watt se non ricordo male di potenza d'uscita. C'è un laboratorio che è specializzato nella riparazione e nel restauro del DAC, ne ho visto tempo fa, dei video bellissimi, una inquadratura del laboratorio di DAC, ce n'era una catasta, ma tipo non so 40 DAC, pazzesco. Di radio, di strutture. Io tanti anni fa sono stato negli Stati Uniti, sono stato a visitare uno dei negozi più famosi di New York, ma ti dico, sono ritornato scioccato da quella visita, ma negozi che vendeva apparecchiature radioamatoriali, ma cose importanti, con una quantità di prodotto da paura. Ma la cosa più pazzesca è com'era il locale, veramente abituato ai negozi nostri, alla politica, alla strategia nostra, al modo di lavorare nostro, solamente ora mi rendo conto quanto erano avanti. Pensa che quando sono arrivato al negozio c'era una sorta di ingresso così di una mega palazzo, mega una cosa, ma tutto un po' vecchio, cioè non una cosa in ordine, eccetera. Comunque rampa di scale in acciaio, una scala grande ma fatta di ferro, tipo scala industriale, E poi sono arrivato e c'era una, sai, una cassaforte. Ecco, cioè, tu pensa come vedi nei film quando vanno dentro una banca, una porta gigantesca come quella che vedi nei film quando aprono di quelle casse forti, così, ma con la chiusura, con telecamere da, per essere, accedere, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente la porta non era una porta, era veramente una porta di cassaforte, una cosa pazzesca. E dentro questo negozio, tutti con i ricettrasmettenti, con l'auricolare, dentro il negozio non è un negozio, è una sorta di capannone, ma capannone, cioè senza pavimento, c'è, cioè un capannone a cucciamento che ci mancava anche qui di cemento, ma poi con delle strutture, dei banconi, poi con una zona, non so, dedicata alla Iaesu, e di Iaesu c'erano montagne di roba della Iaesu, montagne di apparati, di un modello, c'erano montagne di casse, e poi della Hassler, montagne della Mosley, montagne di roba della Mosley, della Tagra, montagne di roba della Tagra, cioè di tutto, cioè era un capannone immenso con questi banconi, con questa roba catastata, e poi tutto come delle strutture tipo come si tiene nei depositi, da quando puoi vedere la GLS, la TMT, è tutto sistemato così, cioè praticamente il negozio, noi abituati alle vetrine, non so, da Marcucci com'era in via, nel Vialoni, in via Fratelli Borghese, eccetera, vedevi tutte le signorine tutte con la divisa, ma che? Ma era proprio della serie Cash and Carry. Questo è così, io quasi tutto qua ho comprato negli Stati Uniti, non è qualcosa che è capitato di scambi qua, ma di tutte queste radio l'80% la provenienza è degli Stati Uniti, sono arrivate acquistate da eBay. Devo dire che i primi anni anche qualche fregatura ha preso, così come è capitato a tanti, è capitato di prendere anche delle fregature, però poi grazie a Dio, meno male, pure le cose, comunque le radio sono arrivate, e ce le ho, ripeto, tranne qualche scambio fatto qua, ma per il resto quasi tutte sono arrivate. Questo console arriva dagli Stati Uniti, questo realistico arriva dagli Stati Uniti, qua, già guardando qua avanti, buona parte queste arrivano dagli Stati Uniti. Tranne, ripeto, qualcosa che avevo scambiato con Walter, perché a Walter negli anni passati avevo comprato le cose e poi gliele avevo date a lui, perché nel periodo del cambio di casa, stavo facendo lavori qua, sono andato in via Carso, in Massada, non avevo spazio, avevo cose, e allora gli avevo venduto un po' di queste vintage, ne avevo venduto un bel po', ne avevo venduto, e anche belle radio, che poi mi sono ovviamente ricomprato, tipo il Delta, questo qui, 140, poi l'ho ricomprato, e mi pare l'avessi venuto a Gianni Doppio Rum, se non ricordo male, a Gianni Doppio Rum, qualcun altro l'avevo dato a Walter, e qualche cos'altra delle radio, tipo un 6-7 radio le avevo vendute, così svendute, tra virgolette, e poi me ne sono ricomprato, insomma. Ma devo dire che meno male che ci sono queste, che c'è la possibilità di oramai, fra l'altro con PayPal, cioè sei garantito. Ecco, l'unica cosa che adesso, per causa del Covid, questi problemi, è un po' un casotto, e soprattutto adesso il discorso della tassazione, perché rischi, come mi era già capitato in precedenza sia a me che anche a Walter, di acquistare delle cose ad un prezzo, poi arriva il corriere e dirmi ci sono da pagare 140 euro, ci sono da pagare 130 euro, ci sono da pagare 90 euro, capito, però se ti interessa un determinato articolo e non lo trovi da altre parti e lo vedi lì in vendita, chiudi gli occhi e vabbè, se no, non li fai a meno, insomma, chi se ne frega. Quercelle, Gianni, Quercelle. Volentieri, Gianni, io praticamente faccio la mia dose di radio 4-6 ore al giorno, in questo periodo anche di più, perciò, e soprattutto poi io sono notturno, perché sai bene, per attività radioamatoriale, per collegare determinate zone del pianeta, devi stare in radio in ora tarda o addirittura in certi casi molto presto, addirittura molto spesso metto la sveglia prestissimo e sono qua alle 5, magari per cercare di collegare Australia, Nuova Zelanda, comunque l'altra parte del pianeta. Pertanto, quando hai voglia, la sera, dopo cena, a parte che magari durante tutto, ripeto, perché qui io quasi a tutte le ore, ma dico, dopo cena prova a dare una chiama, perché io comunque la radio lascio sempre accesa, lascio qui sul canale 10, perciò chiama, se io ci sono, volentieri ci facciamo ancora altre 4 chiacchiere, magari, ecco, invito anche Fabrizio, se vuol partecipare, che in questo video magari può avere anche possibilità di rimanere in radio anche tardi, o padre, qualcun altro, volentieri, così facciamo dei QSO più giusti per quello che è il vintage, diciamo, un po' tranquilli come stasera. Quest'ora è più facile riuscire a fare QSO piuttosto che in altre ore della giornata, dove invece magari c'è sempre qualche disturbatore o qualche difficoltà, o qualche persona magari un po' che esce fuori dal seminato anche nel comportamento. Molto bene, grazie a te Gianni del simpatico QSO, e ci sentiamo nei prossimi giorni. Non ti faccio gli auguri per l'anno prossimo, perché ne abbiamo appena 28, perciò spero domani e nei prossimi giorni di sentirti prima. Ciao, buonanotte, Marco Scorpion dalle alture di Filgheto passa in QRX e in QS Greca per fare attività in HF. Con piacere, ciao, buonanotte già.